Siamo collegati in diretta con Berlino, con noi c'è Frank, Movimento Antifascista. Buongiorno, anzi buon pomeriggio Frank. Buon pomeriggio. Intanto allora tu dove ti trovi esattamente? Perché le agenzie parlano di situazione particolarmente tesa nel quartiere Pankow, è così? Sì, è vero. Sì, il quartiere Pankow e Prenzlauer Berg, succede in tutti e due i quartieri. Ci sono quattro punti di blocchi di compagni, ogni blocco ha 2-3 mila persone, e così i fascisti di sicuro non possono fare il suo corteo. E adesso sono già arrivato a un primo blocco dove sono solo 50 persone, ma tra loro c'è il presidente della Bundestag, Wolfgang Thierse, e così la polizia non carica. Alla polizia che peraltro ha già caricato questa mattina, se non erro. Sì, ma non di brutto, ha caricato 2 o 3 volte, ma alla fine erano tanta gente e la polizia fa sempre all'inizio finta di voglio caricare, ma quando ci sono 10.000 in giro, prima o poi lasciano fare la gente. Adesso tutti i punti che volevamo bloccare sono ancora bloccati. E io credo che la polizia prima o poi dice ai 1.000 fascisti, o solo 600 fino adesso, che non riescono di permettere il corteo, e così sarà forse fra un'ora sarà finito. Ho capito, quindi diciamo così, questa manifestazione neofascista per il momento è ancora ferma sulle sue posizioni con un grosso Esatto, movimento che sta bloccando comunque qualsiasi accesso alla città. sì, esatto, ma sono fermati da solo 50 persone perché non hanno nemmeno arrivato questi punti di blocchi grandi, perché 50 persone, tra di loro Wolfgang Thierse, presidente del Bundestag, hanno già bloccato dopo 200-300 metri questo corteo. Ho capito, quindi si spera che questi non riusciranno mai a muoversi, insomma, per oggi. Speriamo, Speriamo. speriamo. Tutto bene lì? Qualcuno è stato fermato nelle prime cariche stamattina? Nulla? Tutto a Sì, posto? hanno arrestato 2 o 3 persone, ma fino adesso non è successo niente di grave. Benissimo, state tutti bene. Quindi, Frank, ci ricollegheremo più avanti, quindi nel pomeriggio con voi. Ok, va bene. Scusami, prima di lasciarci, ci sono state manifestazioni per il 1° maggio dei sindacati, diciamo così, ufficiali a Berlino? Ah, di questo non so quasi nulla. Non sai Ci quasi sono nulla. sempre tantissime manifestazioni ufficialmente dai sindacati e quella grande manifestazione rivoluzionaria a Kreuzberg, che comincia però alle 6 di sera. Ah, quindi più tardi, Così da voi più fra tardi? più tardi, fra 2 ore, e sarà nel quartiere Kreuzberg in Neukölln, che è abbastanza lontano da dove ci troviamo adesso noi. Ho capito. Benissimo, allora con voi ci ricollegheremo quindi più avanti nel pomeriggio. Grazie Frank, intanto. Grazie a te.